1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:21 minuti, ce l'abbiamo fatta anche oggi a comparire in rassegna stampa. Allora, vi ricordo che avremo Guido Bertolaso alle 8:40 ospite a questi microfoni con Oscar Giannino e andiamo a leggere i giornali. Siamo a martedì 15 marzo, i titoli intanto, ne leggo due o tre e poi andiamo a leggere subito qualche articolo. Forti acquisti di BTP, spread verso quota 100, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre l'apertura internazionale per il Corriere della Sera, svolta di Putin, via dalla Siria, così Repubblica, svolta di Putin sulla Siria, via le truppe, anche il Giorno apre su questo. Poi ci sono molti giornali sulle polemiche sessiste, diciamo così. Non è un paese per donne, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. L'Unità sintetizza tutto così. Stai zitta a casa e cucina. Vabbè, ma voglio buttarmi subito nella lettura con l'apertura del Messaggero. Appalti, il marcio in Campidoglio, è anche la prima pagina di Repubblica, o meglio pagina 2 e 3, la notizia dunque più importante se aprite il giornale, riguarda che cosa? La relazione che Cantone, l'autorità anticorruzione, ha fatto su 3 anni di commesse e appalti a Roma. Un disastro. Cantone accusa Roma, dagli asili alle strade, ecco tutti gli appalti illegali. Questo è il titolo di Repubblica, mentre il Messaggero sintetizza così: sprechi, appalti illegali, Campidoglio fuori controllo. Nella relazione dell'ANAC su 3 anni di commesse elencati ben 18 tipi di violazioni diverse. Cantone cosa ha fatto, racconta il Messaggero? Ha analizzato con la sua authority 1850 procedure negoziate, dunque senza gara pubblica, tutte tra il 2012 e il 2014, e ha riscontrato appunto 18 tipi di violazioni differenti. Carenza o difetto di motivazione dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata. Si affidavano per esempio sistematicamente alle stesse imprese lavori e servizi mediante l'improprio ricorso allo strumento della proroga. Oppure il Comune di Roma ha spesso affidato l'incarico di responsabile del procedimento e direzione dei lavori di numerosi contratti a una ristretta cerchia di soggetti con professionalità in alcuni casi non rispondenti alle previsioni della normativa. Ha fatto una relazione Cantone in cui ha detto un disastro in pratica e ha chiesto al prefetto Tronca di prendere misure correttive delle riscontrate violazioni, insomma ciò che Tronca aspettava per prendere la responsabilità di assumere alcune decisioni nei confronti dei responsabili da identificare tutte queste gare e queste procedure illegali. Ripeto, anche Repubblica dedica pagina 2 e 3 a dire praticamente tutte le gare degli ultimi 2 anni erano fatte fuori dalle regole. Evviva! E intanto continua quella che è stata definita la tangentopoli tributaria. Sempre Repubblica, ma anche il Giornale, eccolo qua, anche La Stampa, anche il Giorno. Beh, intanto fanno titolo perché questo è efficace, le tangenti nei cesti natalizi. Altri 2 giudici arrestati a Milano. Sentenze aggiustate in commissione tributaria, questa è la solita accusa. La procura dice corruzione ovunque. Questo è il titolo della Stampa a pagina 19. Repubblica, tra l'altro, si concentra sulla figura di Luigi Vassallo, considerato l'aggiusta processi nelle commissioni tributarie. È stato arrestato. Lui che è stato definito scaltro, brillante, ambizioso, col sogno nemmeno tanto celato di diventare giudice onorario in Cassazione. Negli studi legali, tra gli avvocati tributaristi, coi consulenti fiscali, Luigi Vassallo era la giusta processi nelle commissioni tributarie. Tanto che la sua attività principale non era più assistere i clienti nei processi. Da almeno 2 o 3 anni ha pochissime udienze, spiega la segretaria. La sua attività principale? funzione di giudice nella commissione regionale intermediario per aggiustare i processi anche in Cassazione. E così è stato arrestato, è da lì che è partito un po' tutto, quando è stato arrestato gli hanno trovato anche 300.000 euro in contanti, soldi che mi ha regalato mio fratello, questa è la sua versione. Ma comunque ieri sono stati arrestati altri due giudici onorari, si allarga dunque questo scandalo delle presunte sentenze pilotate. Per la verità sono tre i giudici onorari arrestati ieri a Milano. E vabbè, eccolo qua. Vendevano verdetti a 5.000 euro e poi le tangenti nei cesti natalizi. La procura dice che la corruzione è ovunque, ne abbiamo parlato anche ieri. Ma andiamo avanti così, Intanto vi segnalo, per saltare nell'altra notizia orribile che ha davvero riempito i giornali, continua a riempire i giornali in questi giorni, vale a dire il delitto di Roma, il delitto di Luca Varani da parte di Marco Prato e Manuel Foffo, a parte dettagli ancora più raccapriccianti, secondo questi verbali, dei due rei confessi, Varani sarebbe stato scelto come vittima dopo una selezione, una sorta di casting, cioè sono passate vari ragazzi lì e poi hanno deciso quale di questi ragazzi uccidere. Segnalo su Repubblica l'intervista al padre di Manuel Foffo, uno dei due assassini, Walter Foffo, colui che è andato a porta a porta, giusto per capirci, colui che è andato a porta la sera dopo la confessione del figlio, con tanto di annesse polemiche. Ora, intervistato da Repubblica, da Lorenzo D'Albergo, a pagina 19, dice: «È una vergogna, mi incontrano per strada e mi urlano assassino, come se fossi io il colpevole. Ci si vede, per chi ci vede per strada, ci grida assassini. È una vergogna. Io però voglio solo incontrare la famiglia di quel ragazzo, Varani, voglio chiedere scusa a loro per quel che è successo, un perdono che costerà al papà e alla mamma del povero Luca uno sforzo immenso». Signor Walter, ha saputo cosa ha detto suo figlio, tra l'altro, che diceva nei verbali avrei voluto ammazzare mio padre, ma non è vero, non ci sono ancora i nuovi verbali, andatevi a leggere gli atti. E poi non si tratta di difendere mio figlio, io non sono andato in TV per difendere mio figlio, ho raccontato solo la verità, non ho difeso nessuno, aspetto l'esito delle indagini e cosa direi oggi a mio figlio, lo vuol sapere? Lei non sa i calci che gli darei in questo momento, ma ora penso ad altro. E così comunque urla, in questo modo bisogna dire anche legittimamente, è vergognoso che diano dell'assassino a me quando mi incontrano per strada, e aggiunge: prenderei mio figlio a calci per quello che ha fatto, eppure quando lo vedrò non so se avrò la forza di parlargli. Questa è l'intervista al padre di Manuel Foffo, la trovate su Repubblica. Vabbè, ecco qua, visto che come al solito vi ho dato delle brutte notizie, ne ho trovata una bella, una che vi farà sorridere, una che vi renderà un po' più allegri, una che vi farà svoltare la giornata. È la storia di Nonna Ciccia. Per carità, non sono sessista anch'io, non accusatemi di questo, è chiamata così. Nonna Ciccia, sulla stampa, raccontata la sua storia, è la nonna che scrive ai potenti. Piero Dadoni lo racconta da Cuneo, è una storia di una nonnina, Enrica Tavecchio, ma è 65 anni, neanche così anziana, assolutamente, ancora giovane, dai, insegnante di francese ex alle medie, poi direttrice dei corsi universitari di amministrazione aziendale a Cuneo, che ha questo vezzo, scrive ai potenti dal piccolo paesino di Pianfei, dove vive nel 1773, dal 1973, scrive ai potenti, da Obama, Alain Delon, Sophia Loren, Alberto di Monaco, la regina d'Inghilterra, e le rispondono Mattarella, le rispondono moltissimi di questi, rispondono, vabbè, magari risposte un po' istituzionali, ringrazio per la felicitazione, gli auguri, gli ha risposto Mattarella, oppure la regina d'Inghilterra, sua maestà ha apprezzato moltissimo i pensieri che lei le ha dedicato. Alberto di Monaco, cara signora, sono molto sensibile alle vostre attenzioni. Per carità, sembrano un po' delle risposte preconfezionate, prestampate, no? Un po' che si manda. Però nonna Ciccia così scrive aforismi ai grandi della terra e molti di loro le rispondono. Evviva! La trovate questa storia sulla stampa. Mentre eccoci qua al premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa pinzone della giornata. Qui veramente verrebbe da dire, guardate, sentite qua sul giornale cosa succede. Nino Materi racconta, pagina 15, l'asilo che sostituisce gli auguri al papà con lo slogan etnico. Siccome non si devono offendere le coppie gay, c'è un asilo a Milano, nella città metropolitana del futuro più avanzata d'Italia, Milano, dove si abolisce la festa del papà per non fare del politically incorrect nei confronti delle coppie gay. Dove finiremo? Dove finiremo? Ma sì, cancelliamo il presepe, cancelliamo il Natale, cancelliamo i canti di Natale per rispetto delle altre religioni, cancelliamo la festa del papà. Ma perché tutti i genitori non ritirano in massa dagli asili i loro figli, da questa gente ottusa, ottusa, ottusa? Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, la sveglia dell'informazione. Eccolo qui, ci ha scritto e ci ha mandato questo messaggio Nicolò da Torino, 10 anni. Un grande abbraccio ovviamente. Spero che tu abbia rubato il telefono a tuo papà o a tua mamma per mandarci questo messaggio. Allora, al 349-238-6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Allora, su cosa si sta interrogando la politica? Vado un po' di corsa, mi mangio le parole perché qua ormai il tempo è risicatissimo. Vediamo allora di dare poche notizie, ma buone. Allora, buone o quelle che contano. La bufera politica è sulla frase di Bertolaso, che sarà tra un'ora ai nostri microfoni, alle 8:40. No? La Meloni faccia la mamma. Per la verità, molti ricordano che la stessa Meloni all'inizio aveva detto no, io non posso fare la campagna elettorale perché devo fare la mamma, faccio molta fatica, è molto faticoso, ve l'immaginate una campagna elettorale facendo la mamma? Comunque, insomma, è un po' diverso se la scelta viene da lei come scelta personale o se la scelta le viene in qualche modo imposta o comunque consigliata in un'intervista in maniera spigliata da Bertolaso. Sta di fatto, Bertolaso sotto attacco, centrodestra nel caos, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera. Ci sono diciamo due aspetti, l'aspetto prettamente politico, cioè la scelta di Giorgia Meloni che racconta il Corriere della Sera, pagina 6, è pronta a candidarsi, pronta a candidarsi. E lo stesso Salvini viene intervistato da Repubblica, a pagina 9, e dice a Tommaso Ciriaco, chiaramente, se Meloni, se Giorgia si dovesse convincere, per me il candidato è lei. E riguardo a Bertolaso, lo liquida così. Non parlo di questioni locali, anzi di beghe locali. Insomma, Salvini pare aver proprio messo una pietra tombale su Bertolaso e punta tutto sulla decisione di Giorgia Meloni di candidarsi. Quindi questo è l'aspetto politico che fa sbottare Berlusconi. Sentite cosa dice il Foglio. Il Foglio dice che Berlusconi a un certo punto, lo racconta Salvatore Merlo in prima pagina, lo chiamano e dicono: presidente, c'è Giorgia Meloni al telefono. E lui: no, oddio, no, basta, vi prego, ditele che sto facendo la pennichella. Insomma, un Berlusconi che non ne può più. Anzi, come sintetizza Gasparri, sempre sull'articolo del Foglio, guardi, la sintetizzo così: Berlusconi si è proprio rotto le palle. Questa è la sintesi politica. Sentite invece Francesco Verderami, sempre su Silvio Berlusconi e Salvini, sul Corriere della Sera, pagina 8, la rabbia di Berlusconi per Salvini. Non ha alcuna esperienza di governo, non ha nemmeno avuto mai un mestiere vero. L'unico lavoro che ha fatto è la comparsa a Mediaset. Berlusconi parla così di Salvini. sono ai minimi termini. Questo è l'aspetto politico. Poi c'è l'aspetto, appunto, se volete, della battutaccia di Bertolaso, la bufera, l'attacco sessista, la Boldrini che fa un'intervista a Repubblica, ovviamente non perde l'occasione, subito monta sul caso dicendo basta misoginia, intervistata da Giovanna Casadio, Meloni non sta nessuno decidere per lei, e poi la maternità non è certo un ostacolo, casomai una marcia in più. Dice Laura Boldrini, non esiste una regola, ogni donna è diversa, le reazioni cambiano. Io ricordo che quando, dopo la nascita di mia figlia, scoprì di essere più capace da alto commissario per i rifugiati dell'ONU di gestire situazioni che riguardavano mamme e bambini nei paesi in guerra. Comunque, insomma, è un paese misogino, è un paese sessista. Così non Giorgia Meloni, così Laura Boldrini parla da Repubblica della vicenda di Giorgia Meloni, anche perché c'è l'altro caso del Movimento 5 Stelle con Patrizia Bedori che si è ritirata per la troppa pressione mediatica su di lei alla corsa a candidato sindaco a Milano, e però dice e accusa in due interviste a Repubblica e al Corriere della Sera, mi hanno detto brutta e obesa. Dubitano del mio curriculum, ma ho fatto anche il direttore commerciale, dice Repubblica. Non è vero che sono disoccupata e casalinga, sono casalinga per scelta. E comunque non può essere un'offesa essere né casalinga né disoccupata. E mi hanno attaccato senza dubbio più gli uomini. Trovo anche veramente offensivo e da trogloditi quello che ha detto Bertolaso di Giorgia Meloni. Comunque mi hanno detto, mi hanno aggredita sull'aspetto fisico, lo dice a Repubblica, lo dice anche al Corriere della Sera. Per la verità il Corriere della Sera racconta con Andrea Senesi che fu lo stesso Beppe Grillo in uno spettacolo a definire una brava mamma un po' robustella Patrizia Bedori. E come? Lo stesso Beppe Grillo. Ma io con Beppe mi sono chiarito, dopo lo spettacolo l'ho raggiunto, gli ho detto sorridendo, scusa, robustella a chi? Ci siamo abbracciati, la cosa è finita lì. Insomma, so distinguere la battuta e la satira dall'aggressione. E comunque dice e ribadisce Patrizia Bedori, la verità è che la politica è fatta per squali e io in mezzo a questi squali non ci so stare, non è il mio mestiere, la politica sarebbe una cosa semplice, ma di mezzo c'è il potere e quel mondo non è il mio, io se dico una cosa è quella, gli altri promettono, per questo oggi quando ho detto non mi candido più mi sento liberata. Mi sembra di volare. E va bene, poteva evitare di candidarsi. Comunque, insomma, evidentemente si è scottata e torna indietro. Ma attenzione, perché in tutto questo bailam della politica, in queste polemiche, sessismo, misoginia, candidati che non si trovano, candidati che arrivano, candidati che se ne vanno, c'è la carta segreta, Berlusconi è un candidato, la politica guarda al futuro, la politica guarda avanti, la politica si rinnova. Berlusconi per Benevento pensa a Clemente Mastella. Pagina 9 della Stampa, Berlusconi ricicla Mastella. Pare lui, e ci sarà l'annuncio forse domenica, il candidato a Benevento per il centrodestra. Mai nessuno che candidi un Mauro Meazza. Io non lo so. Maurino, buongiorno. Buongiorno. Ma non ti eri candidato tu per Roma? Pensavo oggi facesse un sì, dibattito. Sì, avevamo detto via le multe. Ah sì, avevi anche fatto le promesse elettorali abbastanza imbarazzanti. Oggi dovremmo farne una seconda. Via il canone della RAI a tutti i cittadini di Roma che mi voteranno. Solo temo a quelli che mi voteranno, devono vedere il voto. Non si possa fare, adesso vado a vedere sul Sole 24 Ore se è una cosa consentita. Vabbè. Volevo dirti, hai preso oggi il quarto volume del corso di educazione finanziaria? Sì. Sai che oggi è martedì. E solo oggi. Oggi e solo oggi in edicola. Il corso di educazione finanziaria, guarda che la mia copia non te la presto, perché poi non me le restituisci, te ne ho prestate e non me le restituite, quindi mi raccomando procuratelo per conto tuo, in edicola solo oggi, parliamo di casa e mutui. Hai visto che è tornato d'attualità lo spread, lo spread con una buona notizia, sta calando, è arrivato a sfiorare la quota 100 per la differenza tra i nostri titoli e quelli tedeschi, è una buona notizia. E invece rallenta un pochino l'iniziativa dell'Unione Europea sui semafori inglesi. Sai cosa sono i semafori? Ah, so, sì, sì, non so. I semafori quelli della viabilità, no, i semafori quelli che vengono apposti sugli alimenti, ecco, sai, vengono usati in un po' in una chiave protezionistica, si potrebbe dire, in Gran Bretagna, e quindi la UE aveva, l'Unione aveva avviato una procedura di infrazione che però va un pochino a rilento, te lo spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore. O così come ti diamo delle anticipazioni, perché ci sono dei preparativi per un piano per invitare a reinvestire gli utili nelle piccole e medie imprese, insomma, come si dice, trasferire il denaro all'economia reale. Poi ti voglio dire ancora, ti voglio parlare di patent box. Oggi è tutta una cosa che gira attorno a semafori, patenti, eccetera. No, il patent box in realtà, come sai, si occupa di agevolare marchi e brevetti. Però stiamo aspettando ancora la circolare e il tempo stringe e il fisco non se ne avvede, l'uomo non se ne avvede, era il verso originale, ma l'abbiamo opportunamente modificato. Ricordati che oggi è... Martedì, che giorno è oggi? Condominio. Ma perché ti distrai? Non so cosa fai, parli con Bescapè, cosa fai? Non posso parlare, c'è un vetro. Allora, oggi è martedì 15, c'è la pagina di condominio. Parliamo delle spese che bisogna sostenere nel caso il terrazzo e il lastrico solare presentino delle perdite a danno chiaramente di tutti i condomini. Ti rimando alla pagina, il tempo stringe. L'abituale saluto, come sempre, caro Alessandro, cari ascoltatori. Traffico! Alessandro Milan, l'Empire State Building dell'informazione! Wow! Lei è Anna, 11 anni da Verona. Mi dicono anche lei avrà rubato il cellulare un attimo al genitore, alla mamma, al papà, per mandarci questa straordinaria sigla. Un abbraccio, Anna, ovviamente, al 349-238-6666. Che bello, né, che le nostre sigle fanno i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri piccini, i nostri ascoltatori piccolini. Allora, guardiamo e volgiamo lo sguardo un po' all'estero. Lasciamo questa politica rissosa in Italia, siamo solo all'inizio, la campagna elettorale non è ancora cominciata per le amministrative, e guardiamo la Germania, dove invece ci sono state delle elezioni nelle quali la Merkel ha avuto un arretramento e dunque sono avanzati soprattutto i partiti cosiddetti xenofobi, il partito dell'AfD. Però sui migranti la Merkel sconta probabilmente per molti analisti l'apertura ai migranti fatta di recente, non cambia la cancelliera tedesca. Alessandro Merli racconta sul Sole 24 Ore, Angela Merkel non demorde, semplicemente chiede più tempo come suo costume. Ma il partito, dopo la sconfitta nelle regionali di domenica, che hanno finito di essere un referendum sulla politica delle porte aperte del cancelliere, è in subbuglio. Il giorno dopo le elezioni in tre Länder della Germania, dove è andato il 20% degli tedeschi alle urne e che hanno visto la clamorosa affermazione del partito anti-immigrati Alternative für Deutschland, la signora Merkel ha ammesso che si è trattato di una giornata pesante, ma non ha cambiato la linea che punta su una soluzione europea e l'accordo con la Turchia da definire al vertice dei capi di governo di questa settimana. Dunque una Merkel, come scrive il Sole 24 Ore, che non demorde, tra l'altro anche altri giornali, La Stampa, che ha sempre uno sguardo molto attento a quello che succede fuori dai nostri confini, con Alessandro Alviani, racconta da Berlino chi è Frauke Petri, la leader del partito Alternativa per la Germania, e lancia il nuovo slogan «Siamo il partito della pace sociale» e racconta che cosa vuole per la Germania. Quindi trovate molto sulla Germania, trovate molto anche della guerra in Siria. La notizia con la quale aprono molti quotidiani oggi, Repubblica, Il Corriere soprattutto, è la svolta di Putin, che dice «In Siria il nostro lavoro è finito». E dunque missione compiuta per Putin. Annuncio a sorpresa in TV, come racconta Fabrizio Dragosei a pagina 2 del Corriere della Sera, l'annuncio dato con grande enfasi da Vladimir Putin in diretta: le nostre forze armate hanno svolto il compito assegnato. Così il presidente russo, per la verità, se lo vogliamo pronunciare correttamente, Vladimir. Eccolo, Putin che dunque annuncia via dalla Siria. Queste sono le notizie più importanti che trovate dall'estero. Se vogliamo tornare sulle cose italiane, ci sono alcune cose, alcune notizie di cronaca che mi hanno colpito. Prima fra questo, una notizia che ho trovato solo sul Corriere della Sera. Giovanni Bianconi, pagina 21, si parla di terrorismo internazionale, mentre vi ricordo che in questo momento state assistendo, anche se non lo sapete, è una grande novità. Ci potete vedere anche in diretta su Facebook, sulla pagina di 24 Mattino. C'è Lorenzo Nespoli che mi sta riprendendo. Correte lì sulla pagina di Facebook di 24 Mattino a vedermi. Comunque, il Tribunale dei Minori nega l'espulsione a un 17enne di Sassari imputato di terrorismo internazionale, ma, racconta il Tribunale dei Minori, se tornasse in Pakistan rischierebbe di diventare un vero terrorista. Ora, per ora, non lo è. E quindi, respinta la richiesta del questore di Sassari, che aveva decretato l'espulsione per un 17enne pakistano, dicendo: qui non è a rischio in Italia, mentre in Pakistan lo sarebbe molto di più. Salutiamo gli amici di Facebook, sono in tanti, si possono vedere, si possono contare. Vabbè, vabbè. Segnalo anche in rapida conclusione la condanna a Bossi Junior, non il Trota, ma Riccardo Bossi, uno degli altri figli di Umberto Bossi, primogenito, il primogenito di Umberto Bossi, che è stato condannato perché ha utilizzato 158.000 euro della Lega per sé. Siamo all'epoca della Lega di Bossi, appunto. E che cosa servivano questi 158.000 euro, come racconta il Giorno? Beh, a fare l'abbonamento a Sky, a pagare le rate dell'università, a pagare gli alimenti alla ex moglie, a pagarsi i rally, tutto con soldi pubblici della Lega. Riccardo Bossi, figlio del senatore, condannato per appropriazione indebita a un anno e 8 mesi con le attenuanti generiche e la condizionale. 158.000 euro, lo racconta il Giorno. Ma siamo al momento della conclusione. Guardate su Facebook quanti articoli ho selezionato, ma non ho tempo per leggere. E allora, eccoci qua. La carta costa, cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali, è un'intera pagina della Stampa di Adriana Marmiroli, che racconta di cocktail. Cocktail, ma quali cocktail? Mica cocktail così, mica cocktail a caso, solo i cocktail d'epoca, solo le ricette vintage. E perché? Per sentirsi tutti come il grande Gatsby. Ma chi se ne frega?